chiama, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente buona fa. Si ma c'era agitata che lo poche libertà che sta terra e sta gente noi uomini ma darà. Terra mia, com'è bella la panzana. Terra mia, com'è bella la guardare. Non è vero, non è sempre stessa, tutte i giorni può cagnare. Oggi è diritto, rimane storto, e che sta vita se ne va. I vecchi vanno in da chiesa che corona per priare, e a paura sta morte che non ci vuole lasciare. Terra mia, com'è bella la panzana. Terra mia, com'è bella la guardare. Arbarna po parata nata, io viro pampani, io mambo verne, tu mo verne na na na ne, oru rana taie, terra mia, tu si chiene libertà. Terra mia, io mo senta libertà.